Allora, quando sono le 21:20 con una sigla balbettante. C'è sto stasera? Non lo so, è tutto contro di noi. No, siamo un po' disco, dai. Disco rotto. Vabbè, questa, come avete capito dagli errori, è Radio Possum. E vabbè, allora, questa sera una puntata completa. Di che cosa parliamo stasera? Raccontaci un po'. Allora, questa sera parliamo dell'incontro che si è tenuto a Barcellona contro le nocività, di cui abbiamo già parlato più volte nelle puntate precedenti. Intervisteremo una compagna che c'è stata e che ci racconterà un po' di cosa si è parlato, cosa hanno deciso. E le prospettive magari future. Siamo un brano? Vabbè, lasciamo il brano. E allora, eccoci subito in collegamento. Pronto, ci senti? Sì, vi sento, vi sento. Ah, ok, meno male. già è qualche cosa, ecco, diciamo. Senti, allora, noi abbiamo così fatto un'introduzione su molto... Molto breve, risicata. Magari se vuoi, insomma, raccontarci un po' meglio tu l'incontro a cui hai partecipato e, insomma, di cosa avete parlato, introdurre un po' l'appuntamento che c'è stato. Va bene. Beh, innanzitutto penso che già, insomma, se avete fatto un'introduzione già sapete che cos'è la MAT. È una linea di altissima tensione, come se fosse un'autostrada elettrica che trasporta un carico all'incirca di 400 volt e che ha lo scopo di connettere l'Europa con l'Africa, che serve in effetti per commercializzare l'eccesso di energia nucleare che viene prodotta in Francia ai paesi africani, appunto. E le imprese coinvolte sono delle imprese costruttrici che hanno già causato disastri in Europa, come la Vinci, e in Sud America come l'Endesa. E, diciamo che questo incontro che si è tenuto il 13, il 14 e il 15 a Girona, quindi in Spagna, era un po' come per trarre le somme, diciamo, della lotta dei compagni nomad, perché in effetti cosa sta succedendo? Che dopo l'occupazione di Mas Castelló, che era un casale in disuso che avevano occupato i compagni, che era diventato un centro di aggregazione importante, che risultava un centro anche di formazione per gli ultimi contadini che non avevano voluto vendere le terre e quindi non avevano ceduto al ricatto o vendete le terre oppure ve le espropriamo. Questa casa è stata subito disoccupata, appunto, perché era considerata pericolosa, e da lì è iniziata una fase di forte repressione per i compagni nomad, che quindi, diciamo, hanno deciso di chiamarsi queste giornate internazionali affinché insomma si potesse diciamo, per avere pareri e confrontarsi con compagni che a livello internazionale si occupano comunque di questioni ambientali, di lotte territoriali. E, pronto? Sì, ci siamo, ci siamo. Ah, mi siete? Ok, scusate. Noi avevamo già parlato un po' di tempo fa con appunto un compagno spagnolo del coordinamento contro la MAT e niente, ci aveva detto che appunto ci troviamo in una fase finale della costruzione di appunto della MAT e che appunto la situazione era molto difficile da gestire e soprattutto c'erano state molte tensioni appunto con le forze dell'ordine. Che aggiornamenti ci sono sul tutto diciamo? Che cosa è cambiato da un mese a questa parte, se tu lo sai? Diciamo che non è cambiato quasi niente, nel senso che loro comunque stanno ancora vivendo questa fase di repressione. I contadini, gli ultimi contadini che non volevano vendere le terre, in effetti le hanno vendute, per cui alla fine il tentativo era quello di cercare di riaccendere la lotta, però loro non sapevano ancora bene come. L'assemblea che c'è stata è stata partecipata perché c'erano per esempio i compagni di SS La Sana, che diciamo sono dei cioè lottano per diciamo impedire la costruzione di questa miniera di carbone in Spagna, i compagni Nomus siciliani e quelli francesi di La Zad. E quello su cui diciamo si è dibattuto è stato un po' i temi a cui tutti i movimenti territoriali si sono costretti a confrontarsi, quindi per esempio il rapporto con la popolazione, cioè se come entrare in contatto con la popolazione, perché per esempio i compagni dei Nomat hanno trovato molte difficoltà perché le persone che avevano venduto la terra in realtà non sono dei veri e propri contadini, sono più dei latifondisti, nel senso che sono delle persone che avevano grossi terreni e che quindi avevano una mentalità diciamo più imprenditoriale, per cui loro hanno trovato difficoltà a rapportarsi con loro e volevano diciamo avere notizie su come gli altri compagni si rapportavano alla popolazione locale e in che senso era, cioè quali erano i compromessi che si era disposti a fare o meno. E poi il tentativo era quello diciamo di fare un coordinamento internazionale in modo tale da riaccendere un po' l'attenzione internazionale su questa questione dei Nomat e anche quello di creare una rete di solidarietà diciamo nel momento in cui non soltanto compagni italiani o francesi che siano disposti ad andare in Spagna nel momento in cui ci sia una manifestazione o altro, ma anche quella di creare magari delle manifestazioni coordinate. Questo è un po' quello di cui si è cercato di discutere. È stato dato un appuntamento in questo senso? L'appuntamento, no, diciamo che la conclusione è stata quella di cercare di diciamo riproporre queste assemblee internazionali quantomeno una volta all'anno e di cercare di trarre diciamo magari o attraverso la scrittura di un giornale oppure di un blog delle diciamo di riportare le analisi e le conclusioni a cui noi eravamo arrivati di fatto. Quindi insomma questo. Ma i lavori al momento come sono? Li stanno andando avanti? Sono fermi? Com'è proprio la situazione? Diciamo che è stato costruito quasi tutta la rete. Ora devono costruire l'ultimo pezzo, che è il pezzo diciamo al confine con la Francia, e quindi di fatto è un po' la battaglia finale, nel senso che una volta che si costruirà questo pezzo con la frontiera francese, in effetti l'opera sarà conclusa e diciamo entrerà in funzione di fatto, ed è per questo che si sta acuendo diciamo la repressione, perché di fatto sono state sconfitte gli ultimi focolai di resistenza e quindi in effetti i lavori stanno cercando di procedere sempre più velocemente. I compagni francesi si sono presentati, c'è stato un intervento anche propositivo, una volontà di bloccare questi lavori al confine oppure no? Come hanno risposto? I compagni francesi, ci sono state delle lotte in Francia, non sono i compagni francesi, sono di Spagna, sono di La Zad, quindi sono di un altro, cioè si occupano praticamente della lotta contro un aeroporto che dovrebbe essere costruito al confine tra Nantes e Saint-Lazare, quindi c'è, diciamo, lontano da, dal confine spagnolo. In effetti quello che ci hanno raccontato è che in Francia pure si sono avuti dei movimenti, però questi movimenti poi sono stati incanalati in delle forme più istituzionali, quindi più di partito, quindi magari centrosinistra ed altro, che quindi è finito in un nulla di fatto, cioè nel senso che poi in effetti anche lì la protesta si è un po' spinta. Quindi non sono, diciamo, aggiornamenti positivi quelli che ci dai anche sull'attenzione? No, non sono assolutamente aggiornamenti positivi, cioè c'è il tentativo di, diciamo che è una lotta che si sta, non è che è spenta, cioè stanno cercando di riaccenderla, però dura da molti anni, diciamo, e non è che, diciamo, sì, è una lotta che si sta spegnendo e i compagni stanno cercando di tutto, stanno cercando di fare di tutto per diciamo impedire l'attivazione di questa rete, anche se comunque insomma è difficile, sicuramente è una sfida difficile. Senti, invece per quanto riguarda la repressione, quanti compagni ancora stanno, diciamo, ingabbiati, stanno diciamo nelle maglie della repressione? Nel momento in cui c'è stata la disoccupazione di Mas Castelló, una persona è rimasta ferita in questa disoccupazione e 6 persone sono state chiamate a dichiarare. Perché accusati di occupazione e sedizione, e quindi diciamo sono queste persone coinvolte e sono state anche delle manifestazioni a favore di questi 6 compagni. Questo è un po' quello che è uscito. È stato fissato un altro appuntamento anche di dibattito semplicemente prossimo, oppure da definire anch'esso? No, è da definire, nel senso che abbiamo scambiato contatti e tutto, ci siamo detti che probabilmente ci sarà un altro incontro internazionale, questa volta magari non in Spagna ma in un altro luogo, per esempio Italia o Francia, e magari uscirà appunto cioè l'assemblea è stata registrata e l'obiettivo era quello di creare, diciamo, un articolo che uscirà. E ci sono dei riferimenti che ci puoi lasciare per chi volesse informarsi di più su tutta questa questione della MAT? Si sta il blog NoMAT, che diciamo chi vuole può accedere, può andare. E questo, diciamo, c'è questo blog a cui, oppure chi vuole può andare a Girona al centro sociale Cocan, ma penso sia un po' difficile. Il blog si chiama più comodo il blog, diciamo. Per noi è più comodo, sì. Il blog Torre S Masaltas Ansaido punto espinblog.net. Ok, casomai se lo ripeti un'altra volta, perché cioè magari è un po' complicato, sì, il nome. Torres Mas Alta Ensaido punto espinblog.net. Sì, che tra l'altro sottolineiamo il fatto che questo blog è tradotto in diverse lingue, insomma, quindi per chi non, esatto, potesse, chi non conoscesse lo spagnolo, appunto, è tradotto sia in francese che in italiano che in inglese, quindi insomma ci sono varie possibilità di comprensione. Esatto, sì. Va bene, e se non hai altro da aggiungere? No, è un po' tutto quello che, insomma, tutto quello che ti è venuto fuori. Va bene, sì. Allora, ti ringraziamo per gli aggiornamenti che ci hai portato e insomma, alla prossima. Grazie, allora. A risentirci, grazie. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao. ce fai e me ne vuoi Deus te le mangi e me sortas e mi scere in atto free out of the bloody hands when it's time we have to show the fight free the sacred land. Well, it's time we have to show the fight. A good mate to their plans, cause they hammer us with fears for many a long year. And it's time we have to show the fight, wipes away the tears. Allora, questi erano gli Inner Terrestrial con Free the Land, giusto appunto, visto quello di cui abbiamo parlato finora. Ma adesso continuiamo con notizie più nostrane. Sì, torniamo comunque, continuiamo a parlare di terra, ecologia. Ed è di una brutta notizia che viene dall'Abruzzo, a parte che la logistica è veramente pessima. Forse non dovresti usare questo microfono, ma quello che è di fronte a te. Ma mi sono stati rubati i microfoni, quindi. Vabbè, insomma, in sintesi, in Abruzzo succede che, premessa, tra pochi mesi si vota e quindi tutti i politici stanno facendo a gara per cercare di accaparrarsi più voti possibili, scambiando prebende, favori e via dicendo. E un consigliere regionale, tale Luca Ricciuti di Forza Italia, ha proposto di tagliare via 4.000 ettari di bosco del parco regionale del Velino Sirente e quindi dare vita a un'operazione che tecnicamente si chiama riperimetrazione, ovvero significa togliere questi 4.000 ettari dalla gestione del Parco Nazionale dell'Abruzzo e trasformarli in non più territorio non più vincolato, e quindi sostanzialmente aprirlo a speculazione edilizia, costruzione e caccia. Tra l'altro la zona è particolarmente importante dal punto di vista della biodiversità, perché è una zona dove ci sono presenti orsi marsicani, lupi, addirittura anche grifoni, che sono molto rari, e quindi è un vero e proprio scempio ecologico, una vera e propria devastazione. L'associazione Animal Amnesty ha lanciato, per chi interessa, una raccolta firme di protesta che in pochi, leggiamo dal sito della stampa.it, in pochi giorni ha raccolto già 140.000 firme. Ma insomma, tutto questo è molto interessante perché, appunto, come al solito, prima ci si strappa i capelli se arriva qualche alluvione su un territorio devastato e fa qualche morto, e poi ovviamente la politica non fa altro che cementificare e devastare ulteriormente il terreno. Quando questa proposta dovesse passare, quando su questi 4.000 ettari, una volta costruiti, di case, centri commerciali, stazioni sciistiche e via dicendo, dovesse abbattersi un'altra tra virgolette catastrofe, assisteremo sempre alla solita commedia e niente, in cui si comincia a dire che bisogna difendere il territorio, valorizzare il territorio. Ma insomma, comunque, la storia di questo paese lo insegna abbastanza bene che il cemento ormai è l'unica moneta di scambio per per la politica in tutti i campi, anche per esempio di questo parleremo nelle prossime puntate sugli stadi di calcio addirittura. E vabbè, niente, tutto qua, una brutta notizia, speriamo che questo progetto non passi, non vada avanti. Io comunque adesso dico una cosa, ma non è una cavolata, eh? Cioè credo di parlare a nome di tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Sicuramente non a nome della redazione. Quando vorrei sapere da te che cosa, se veramente esistono i grifoni. Io penso che era un animale mitologico, e se sì, che animali sono? Sulla stampa c'è scritto che ci sono anche i grifoni. Comunque i grifoni sarebbero, credo che siano degli uccelli, i grifoni. Forse sì, comunque pare che in Abruzzo ci sia anche l'unicorno. Dai. E l'ippografo, quindi, come si... il dodo forse. Comunque lo vediamo subito. Ecco, sì, con molta professionalità stiamo cercando su Google che cos'è il grifone. È il simbolotto del Perugia, il grifone. È una specie di avvoltoio. Accidenti, è bellissimo, mazza. Veramente un animale grande, cioè un uccellone. Comunque attenzione che è stato avvistato anche un esemplare di tirannosauro, quindi... C'è sempre il mammut di Re Bibbia, poi, no? C'è sempre il mammut di Re Bibbia. Comunque ci fa piacere, Mocio, che trovi i grifoni carini. Noi in realtà preferiamo tutti i pappagalli, no? Sì, no, voglia, cioè riempiamo Roma di pappagalli. Io spero che i grifoni si sbranino tutti i pappagalli che esistono a Roma e nel Lazio, ma anche in tutto il resto d'Italia. Non entriamo nel merito. O che muoiano di una morte atroce, vabbè. Che faccio? No, ci dissociamo ovviamente da queste dichiarazioni così avventate, una persona un po', diciamo, squilibrata, psicolabile. Vabbè, che vogliamo fare? Volete dire un'altra cavolata oppure passiamo alla prossima notizia? Chiudere la trasmissione e portarti al primo centro di igiene mentale che troviamo aperto. Allora, siccome qua si sta andando proprio dalla padella alla brace, direi di mettere una canzone subito. Mettiamo subito prima che sia troppo tardi. Una canzone. Non capisco. Taking its toll. She just doesn't know how much more she can give. But here, at the top of the world, where I raise my hands and I clench my fists, they stand before me below, demanding the answers with flips of a switch. I'm E allora siamo di nuovo in diretta con una nuova voce, vai. Va bene, allora adesso leggiamo un comunicato da Carzago della Riviera, leggiamo da informazione, comunicato anonimo da Bite Bag Magazine. Allora, nella notte dell'8 dicembre siamo entrati nell'allevamento di visoni a Carzago della Riviera, Brescia. La presenza dei tanti cani da guardia, di due custodi e sistemi di sicurezza non ci hanno fatto desistere. È stato creato un passaggio per i visoni, tagliando parte della recinzione e demolendo alcune lastre di protezione. Dalle gabbie sono stati tolti tutti i cartellini con informazioni utili a tracciare la storia di ogni singolo animale, soprattutto per quei visoni destinati ad essere riproduttrici. Le piccolissime gabbie richiudevano anche quattro visoni. Queste prigioni avvolte nella nebbia, oltre al corpo, rinchiudono la sofferenza di milioni di individui animali. Sono state aperte e danneggiate le gabbie di quasi 7 degli 8 capanni presenti. Siamo stati interrotti dall'arrivo dei due custodi, svegliati dalle grida dei visoni liberi, che ci hanno rincorso sparando alcuni colpi di fucile, probabilmente caricato a sale. Correndo nei capanni, tra mille piccoli occhi che risplendevano nel buio, col favore della notte, anche noi abbiamo iniziato la nostra fuga. Molti animali erano già stati uccisi e scoiati, molti anni altri verranno ricatturati, solo alcuni troveranno la libertà. Com'è possibile avere mille parole contro lo sfruttamento animale e non compiere un solo semplice gesto che porta la libertà a quegli animali dai luoghi di tortura? Questa semplice azione, che chiunque può riuscire a realizzare, è parte di quella lotta che vuole la chiusura totale di questi allevamenti fabbriche di morte. Questa lotta non si ferma solo agli allevamenti, ma è contro ogni forma di sfruttamento e dominio. Anche per questo abbiamo scelto di intraprendere l'azione diretta. La liberazione che passa attraverso il teatrino democratico e parlamentare, con tutte le molteplici forme di delega, spettacolo e pacificazione sociale, è solo una parvenza di cambiamento o uno sfruttamento che ha assunto nuove sembianze. Non aspetteremo l'arrivo di gabbie più grandi, ma distruggeremo immediatamente quelle esistenti. Gli allevamenti in Italia sono in aumento, si stanno ingrandendo e rinforzando. Ora più che mai è urgente farli desistere dall'aprirne di nuovi e far chiudere quelli presenti. In queste notti gli allevatori non dormiranno sonni tranquilli. Nonostante tutte le misure di sicurezza che avranno, qualcuno riuscirà sempre a entrare nei loro lager. A quei piccoli mille occhi risplendenti nel buio, corriamo visioni, corriamo. Ci definiranno terroristi. Chi è terrorista? Tra chi decide di liberare degli animali anche sapendo che non tutti sopravviveranno, ma dandogli una possibilità di libertà, o chi rinchiude degli animali in una gabbia per allevarli, ucciderli e scuoiarli per farli diventare una pelliccia? Animali privati della libertà, della loro soggettività e individualità, che dovrebbero vivere liberi e invece passano parte della loro vita rinchiusi in una gabbia, per poi essere vivi sezionati, torturati, uccisi, diventando una cavia su cui sperimentare, diventando una mera merce, un prodotto, una pelliccia, un pezzo di carne. siamo di nuovo in diretta con la prossima notizia. Sì, adesso leggiamo un altro comunicato da Essere Animali, essereanimali.org, sulla liberazione di tre visoni che hanno fatto quest'estate. E allora, il comunicato si intitola "Dalle gabbie alla libertà, una nuova vita per tre visoni". Durante la passata estate abbiamo preso con noi tre visoni da un allevamento di animali da pelliccia e li abbiamo liberati in natura, in riva a un fiume. Sin dal primo momento non hanno perso un attimo per gettarsi in acqua, nuotare e tuffarsi ripetutamente. Per la prima volta nella loro vita hanno potuto toccare con le zampe il terreno ed esplorare un ambiente vero, che non fosse una misera gabbia. Vedere in prima persona la loro voglia di esprimersi e di vivere ed essere partecipi della loro libertà è stato un momento bellissimo e carico di emozioni. Per questi animali è cambiata radicalmente la vita e vogliamo che diventino il simbolo di ciò che gli altri 200.000 visoni prigionieri degli allevamenti italiani desiderano: la libertà. Vabbè, questo che avete letto era uno stralcio del comunicato, che è lunghissimo e non finiremo di leggere. E poi la prossima notizia, se riusciamo, purtroppo qua. Allora, nel frattempo è stato liberato Steve Murphy, a dicembre di quest'anno appunto. Steve Murphy è stato rilasciato dalle prigioni federali del Texas e ha finito di scontare la sua condanna in Halfway House, che non so bene che cosa sia, comunque finirà il 25 febbraio. Gli avevano dato 5 anni di prigione nel 2010, dopo che è stato ritenuto colpevole di aver fatto non so bene che cosa, perché non so l'inglese, ma comunque ha incendiato tentato di incendiare un luxury housing development construction site in Pasadena, California. Quindi ecco appunto, per i compagni più internazionali, per quegli stronzi che fanno la trasmissione con me. Comunque precisiamo che Halfway House sono arresti domiciliari e quella lunga frase sono semplicemente un cantiere che stava costruendo un comprensorio di abitativo di lusso, ecco. Va bene. Ringraziamo Mocio per la sua sempre puntuale conoscenza della lingua anglosassone. Sì, comunque se voi non vi stavate facendo tutti i cazzi vostri, magari voi che sapete la lingua potevate tradurla. Però devo dire che ho avuto una pronuncia impeccabile nel dire development Pasadena. Support website. Support. Dai, www.su il sito di supporto di Steve Murphy è supportsteve.org. Vabbè, mettiamo un altro brano. Aspetta che ti devo alzare il microfono, se no vai, parla pure. Cara, soltanto chiudere questo momento di imbarazzo lanciando un altro brano prima di rientrare in trasmissione. Lanciamolo. Future. E allora torniamo in diretta con estrema puntualità per leggervi quelli che sono i prossimi appuntamenti. Ne citiamo uno innanzitutto, che è corteo di essere animali contro gli allevamenti di visoni, appuntamento il 21 dicembre a Modena, ritrovo ore 14:30 a Largo Sant'Agostino. Insieme, scrive Essere Animali, siamo riusciti per il momento a fermare il progetto di costruzione di un allevamento da 40.000 animali a Modena. L'azienda ha ritirato la domanda per la realizzazione di quello che sarebbe diventato il più grande allevamento di visoni attivi in Italia. Adesso dobbiamo fare in modo che questo allevamento non possa mai essere costruito e che tutti gli allevamenti di visoni vengano aboliti. Partecipa con noi. Ripetiamo, appuntamento alle 14:30 a Largo Sant'Agostino a Modena, corteo contro la costruzione degli allevamenti di visone. Sì, sempre il 21, un altro appuntamento, corteo a Saronno. Invitiamo tutti e tutte a partecipare a questo corteo perché le condizioni di vita, leggo il comunicato, condizioni di vita attuali sono inaccettabili e insostenibili. Più persone non riescono a permettersi mutui, affitti e spese quotidiane, con Equitalia alle calcagne. Al lavoro siamo sfruttati e ricattati, eccetera, eccetera. Il corteo è molto. Comunicato è molto lungo. Gioppe, Toffo, Nicco, Chiara, Mattia, Claudio, Lollo, Libere e Liberi Subito, concentramento in piazza San Francesco, ore 15, Saronno, solidali delle province di Varese e Milano. Eh sì, diamo anche noi ovviamente la nostra solidarietà a tutti e tutti gli arrestati no TAV, anche in luce di quello che è successo sabato qui a Roma. Non so se abbiamo un ultimo appuntamento. No, volevamo un attimo insomma pubblicizzare questo blog che abbiamo trovato su Informazione, insomma questa news. Nasce il blog Resistenza Animale, un blog per la diffusione delle notizie di ribellione, di liberazione, di protesta che arrivano dal mondo degli animali non umani resi schiavi per il profitto di pochi umani. Il blog è resistenzaanimale.noblogs.org. Questo mese la storia di Tiche, elefante ribelle, due panda pianificano la fuga dallo zoo, un toro evaso dal mattatoio, latitante per sei mesi, cinghiali attaccano una torre di caccia, maialini invadono una superstrada, una capra fugge dal camion per il macello e si salva. Storia di Patience, elefantessa che uccise il suo carceriere, evasione di massa dallo zoo di Long Island, un polpo evade dal peschereggio, il camion si rovesce, le galline fuggono, l'evasione più grande della storia, ricordando Alexander, Teresa, la mucca che non voleva morire, Randy, il montone evaso dal mattatoio e tante altre storie. È la sproporzione di forze ad essere incommensurabile, forza indicibile, materiale ed ideologica delle strutture del potere umano sugli umani, ma tutti i prigionieri vorrebbero essere liberi, animali compresi, e i continui tentativi di fuga dai furgoni diretti ai matatoi, dai recinti di terra ed acqua lo dimostrano, nella maggior parte dei casi si concludono con l'abbattimento. Non si parla neppure di uccisione, forse perché si abbatte un ostacolo, qualcosa che si è inceppato nel meccanismo inesorabile dello sfruttamento animale. Talvolta la reazione umana è di simpatia nei confronti di chi, anelando la libertà, riesce anche solo per poco tempo a conquistarla ed arriva un'inesperata grazia e la possibilità di vivere in un rifugio. Ma rispetto ai tentativi dell'esito, quasi sempre drammatico, quante saranno le serrature che non hanno ceduto ai morsi, gli steccati insormontabili misurati con i salti, le corde che hanno retto agli strappi, quanti tentativi di difesa della propria vita che non hanno portato nemmeno a varcare la soglia della prigione e vengono ormai soltanto urlati fra le lamiere dei camion in quei non luoghi che sono i macelli? Nell'attesa che ogni gabbia venga aperta per sempre, cerchiamo almeno di cambiare prospettiva. Riconosciamo agli animali la ferma volontà e la capacità potenziale di autoliberazione. Non pensiamoci, pur nel nostro necessario ed urgente agire per gli animali, come i soli eroi liberatori, generosi campioni dell'altruismo, ma come compagni affiancati nella lotta, sicuramente più armati. Insomma, ripetiamo questo nuovo blog, resistenzaanimale.noblogs.org. Sì, a proposito appunto di questo blog, ricordiamo la storia del babbuino che fuggito, notizia oggi dalla Repubblica di Milano, fuggito dal fabbricato vicino alla ferrovia dove lo teneva il suo padrone, che è attualmente ancora appunto in fuga e appunto speriamo per lui la libertà. Diciamo, ci sono tutti che lo cercano tra il padrone, le varie guardie zoofile, ma lui è solo giorni che non si fa trovare. Vabbè. E poi vi vogliamo dire anche un ultimo appuntamento che si terrà a Genzano presso la sede di Radio Default, soltanto che mi avete tolto l'appuntamento. Purtroppo, scusate, ma i miei compagni di trasmissione questa sera hanno deciso di sabotarmi in ogni modo. Eccolo qua, grazie. Domenica 22 dicembre alle ore 13:30 appresso la sede di Radio Default in via Guidobaldi 56 a Genzano ci sarà un pranzo a sostegno di Gianluca e Adriano. Dall'ottobre scorso due ragazzi si trovano in regime di isolamento detentivo. Gianluca e Adriano sono stati incarcerati con l'accusa di associazione con finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico, a cui si aggiungono quelle di incendio, furto aggravato in concorso, deturpamento e danneggiamento di cose altrui. Sono stati ritenuti gli artefici di 13 azioni realizzate nel territorio dei Castelli Romani contro banche, una pellicceria, sedi distaccate di Eni ed Enel e della discarica di Albano. Nel momento del loro arresto, i media locali e nazionali non hanno esitato a definirli terroristi e nel diffondere la solita dose di menzogne e paura su gesti che mirano a danneggiare luoghi, mezzi e infrastrutture a disposizione di chi sfrutta e devasta su questo pianeta. C'è silenzio e silenzio, quello complice che non prende distanze quando la repressione colpisce e quello più timoroso di chi preferisce girare lo sguardo. Per chi guarda i fatti non si può che dire una cosa, vicinanza e solidarietà a Gianluca e Adriano, terrorista e chi sfrutta e devasta, chi diffonde miseria e sofferenza. Per sostenere Gianluca e Adriano, Radio Default e Rete Evasioni promuovono e organizzano un pranzo per affrontare le spese legali di questo processo e supportare le spese ordinarie di chi si trova in carcere, menù vegano e buon vino dei Castelli. Per aiutare chi si cimenterà ai fornelli invitiamo a fare sapere con anticipo il numero dei commensali scrivendo a Radio Default @autoproduzioni.net. Non ignorare questa richiesta per favore, se poi decidi all'ultimo vedi almeno di non fare tardi. Adriano e Gianluca liberi, libertà per tutti e tutte. Ok, e questa credo che fosse veramente l'ultima notizia per questa sera. Sì, era veramente l'ultima. Allora, voglio dire i nostri contatti. Ah, se volete scriverci alla nostra mail lagazzaladra@inventati.org. E invece se volete guardare il nostro aggiornatissimo blog potete guardare su radio.opossum.noblogs.org. Vabbè, allora come al solito un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale, siano essi umani o non umani. Ciao. Ciao.